2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 15 novembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Trovate tutte le informazioni per riascoltarci online su www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Si parla di abbonamento, insomma di sottoscrizione, ci sono programmi che gestiscono il podcast, in questo modo potete aggiornare automaticamente, insomma far fare tutto al software, oppure manualmente aggiornare e scaricare settimana dopo settimana la trasmissione per poi riascoltarla come e quando preferite, sul vostro lettore di musica MP3, oppure fatevi un CD per riascoltarci in autoradio mentre guidate. Tutte le informazioni sono appunto online, oppure se volete, come fanno molti ascoltatori, ogni settimana ci potete inviare una email e vedremo tutte le istruzioni. Oggi, tra le altre cose, parleremo anche di bambini digitali. Si sta creando un digital divide, come dicono i francesi, con un termine molto simpatico, la fracture numérique, il divario tra luoghi del paese, ma non solo, anche tra generazioni, tra grandi e piccini. Ne parleremo più tardi. Tra poco parleremo anche di ADSL, del mercato dell'ADSL italiano, e parleremo anche di un software pensato, costruito, progettato per gli anziani. Ne parleremo più tardi all'interno del programma di oggi. Notizie di questa settimana c'è stato una forte riduzione dello spam. Lo spam, sapete, sono i miliardi di email non richieste che invadono le caselle di posta elettronica di milioni di persone. Alcune stime dicono che la metà delle email che girano nel mondo sono spam. Alcuni sostengono che siano addirittura il 90%, insomma la rete è intasata da questi messaggi che tentano di vendere di tutto, che fanno girare anche virus, che tentano di rubare le identità degli utenti, in questo caso si chiama phishing, insomma è un grave problema. Lo spam, per chi lo fa, costa molto poco, vi chiederete dove sta il business. Beh, sono così tanti questi messaggi che se anche solo lo 0,1%, comunque una percentuale bassissima dei destinatari, abbocca e quindi compra qualche cosa, il business va inattivo. Da tempo si cerca di combattere questo fenomeno con le regole e anche con la tecnologia, ma finora con pochi risultati. E dov'è la notizia? Questa settimana sono state bloccate le attività di una società americana chiamata McColo, che veniva sfruttata dagli spammer per inviare enormi quantità di email. Bene, secondo alcuni esperti c'è stato un calo dello spam mondiale, pensate, del 75%. Queste indagini sono state effettuate, realizzate da alcuni giornalisti del Washington Post e da alcuni esperti di informatica. Bisognerà poi vedere quanto durerà, se durerà, visto che non è difficile trovare società che offrono servizi simili a quelli di McColo. Un'altra notizia riguarda YouTube, che nonostante il grande successo fatica a trovare un modello di business profittevole, insomma le spese, soprattutto le grandi spese per pagare la banda che serve per la visualizzazione dei video da parte di milioni di utenti, le spese superano i ricavi. YouTube, lo ricordiamo, è il terzo sito più visitato al mondo dopo Yahoo, che rimane al primo posto, e Google, che è secondo al mondo. Bene, il sito di video più famoso della rete ha deciso di vendere agli utenti le prime posizioni dei risultati di ricerca. Allora, spieghiamo come funziona e in che cosa consiste questa novità. Se andate su YouTube e cercate un video su un particolare argomento, quindi utilizzando una parola chiave, uscirà una lista di video, così come accade nei motori di ricerca. Bene, se volete che il vostro video appaia per primo nella lista o nelle prime posizioni, potete decidere anche di pagare. In cambio avrete molta più visibilità e quindi una vetrina enorme per mostrare il vostro filmato. Si tratta grosso modo dello stesso sistema utilizzato da Google e dai motori di ricerca in generale per vendere pubblicità correlata alle parole utilizzate nella ricerca, quindi le parole chiave, e pagata in base ai click generati. Ecco perché si chiama pubblicità pay per click. Per ora questa novità riguarda però solo gli utenti americani, ma è probabile che presto arriverà e riguarderà anche la parte italiana ed europea comunque di YouTube. Microsoft ha presentato quello che sarà il nuovo Windows Live, che potrebbe diventare, dovrebbe, almeno questa è l'intenzione di Microsoft, diventare il centro, il punto di riferimento delle nostre attività in rete, e che potrà integrare anche servizi che non fanno parte del mondo Microsoft. Stiamo parlando di servizi online. Queste novità partiranno dall'inizio del 2009, per ora è comunque disponibile una versione beta che potete provare, e anche per spingere su questi nuovi servizi Microsoft ha lanciato la nuova divisione Consumer and Online. Se volete vedere una versione tridimensionale della Roma antica, molto bella, molto affascinante, esiste da pochi giorni un livello tematico, così si chiamano, che può essere aggiunto a Google Earth, il programma per visualizzare la Terra di Google, programma che deve essere scaricato dalla rete, quindi installato sul proprio computer. Ci vuole un computer di ultima generazione con una buona attività grafica, diciamo così, per visualizzare in maniera fluida dalla Terra, e anche questi livelli tematici particolari. Ne è stato creato uno appunto per la Roma antica. E adesso parliamo di banda larga. L'autorità per le telecomunicazioni ha deciso che gli operatori che offrono servizi di connessione ad internet in banda larga, quindi ADSL e fibra ottica, dovranno indicare la velocità minima e non solo quella massima del collegamento. Verranno anche avviati presto una serie di test per verificare queste indicazioni. Quindi oggi, sapete, le offerte ci dicono quali sono le velocità di picco, che spesso poi non vengono raggiunte. Vediamo offerte con scritto fino a 7 mega, fino a 8 mega, fino a 20 mega, eccetera, eccetera, ma un altro dato importante è appunto il minimo garantito che finora solo alcuni operatori minori e i più seri del mercato indicavano. E questa è l'ultima novità che riguarda il mondo della banda larga, ma vogliamo fare il punto della situazione. Saluto Alessandro Longo, che segue questo mercato. Alessandro, bentornato a 2024. Grazie, saluti a tutti voi. Dunque Alessandro, ci sono alcune novità che potrebbero favorire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, un po' di concorrenza in questo mercato della banda larga. Facciamo però il punto della situazione per capire quanto è diffusa oggi. Gli ultimi dati dicono 10,7 milioni di utenti a marzo 2008. Ecco, anche se siamo tra gli ultimi posti in Europa, eppur si muove per quanto riguarda la concorrenza e le regole che diventano via via più favorevoli all'utente. Un altro punto importante per la diffusione della banda larga, della DSL in particolare, è il prezzo. Ci sono sempre polemiche in rete sul prezzo della DSL. C'è chi dice che nei prossimi mesi, ma l'abbiamo detto anche ultimamente, visto l'uso che molti utenti fanno, o meglio l'abuso che molti utenti fanno della DSL, perché scaricano continuamente, quindi saturano la banda, molto probabilmente gli operatori saranno costretti a prendere provvedimenti, non ultimo anche un provvedimento per innalzare gradualmente il prezzo, ma in questo momento siamo in una fase di stabilità. Giusto per capire, Alessandro, qual è il prezzo di entrata per una DSL flat, quindi always on, sempre connessa 24 ore su 24? È facile, 10 euro al mese con la nuovissima Tiscali Mini. Questa è anche una DSL naked, nuda. L'unico problema è che è attivabile solo nelle zone coperte dall'unbundling, cioè dalla rete propria di Tiscali, e quindi solo nelle città medie e medio-grandi. Altrove la DSL naked non conviene, conviene la soluzione DSL più telefono dei grandi operatori, e quindi partiamo da circa 30 euro al mese. Quindi mi sembra di capire che se invece uno ha già la linea telefonica e vuole aggiungere sopra questa linea una DSL, il prezzo di entrata è attorno ai 20 euro, 19,90, poi insomma dipende dalle offerte del momento, Alessandro. C'è Tele2 che è al minimo 16,90. Quindi in questo caso prezzo particolarmente aggressivo. Parliamo delle novità, di quelle novità che per molti dovrebbero cambiare gradualmente il mercato, rendendolo più competitivo. Certo, non possiamo aspettarci vere e proprie rivoluzioni, ma qualche passo in avanti è stato fatto. Oggi cambiare operatore è possibile in maniera più o meno facile, poi ci dirai tu come stanno le cose. Fino a qualche tempo fa, quando si era clienti di un operatore cosiddetto alternativo a Telecom Italia, per passare passare ad un altro operatore alternativo bisognava ripartire dal via, quindi ripassare e ridiventare cliente di Telecom Italia. Una cosa assurda che è stata cancellata negli ultimi tempi. Come stanno le cose? Adesso è molto facile, voglio cambiare ADSL qualunque sia il mio operatore, anche se ho scelto una linea unica di un operatore alternativo, faccio richiesta al nuovo operatore e la prima cosa che mi serve è il cosiddetto codice di migrazione. Nota bene, questo codice mi serve solo se ho un utente, se sono abbonato a un operatore alternativo a Telecom Italia, quindi se sono ancora con Telecom Italia, con la DSL o con la voce, non mi serve questo codice perché Telecom Italia già lo conosce. Questo codice di migrazione praticamente è un codice che identifica la mia linea e la devo dare al nuovo operatore, che poi si coordina con Telecom Italia comunque per staccare la mia linea e passarla al nuovo operatore in una data prefissata che mi viene comunicata, comunque entro 30 giorni dalla mia richiesta. Questa è la grande novità. Questo dovrebbe anche favorire il passaggio da un operatore all'altro in maniera immediata. Fino a qualche tempo fa si rischiava di rimanere senza ADSL per qualche giorno, anche per settimane. Quindi le cose dovrebbero essere automatiche. Si finisce, si termina un contratto con un operatore, si passa automaticamente all'altro. Per molti è un problema rimanere anche per poche ore senza collegamento ad internet, perché in molti casi ci si lavora. Come stanno andando le cose? Come il mercato sta recependo queste novità, Alessandro? Le cose sono migliori adesso, chiaramente, ma ancora non siamo al 100%, perché segnalano gli operatori che anche Telecom Italia segnalano che non si riesce ancora a rispettare quel limite di 30 giorni, perché gli operatori hanno chiesto di iniziare lentamente, di fare un massimo di passaggi al giorno e di conseguenza si stanno creando delle code di richieste di utenti che vogliono migrare e insomma non si riesce a fare nei tempi giusti. Inoltre viene segnalato che adesso il codice di migrazione viene comunicato all'utente solo via call center a voce. Gli errori sono facili, è facile anche intuire che magari alcuni di questi non sono errori ma sono delle malizie per evitare che l'utente cambi operatore, di conseguenza con codice di migrazione errato l'utente poi non riesce più a passare. Insomma, ci sono un po' di problemi, ma quanto risulta già da novembre dicembre saranno risolti, perché Agicom ha chiesto agli operatori di adeguarsi, insomma di cambiare le cose e di rispettare appieno la normativa. Questa che in effetti è una piccola novità, ce ne dovrebbero essere molte altre ben più importanti, ma insomma accontentiamoci anche di questo, dovrebbe favorire la concorrenza. Beh sì, infatti favorisce la concorrenza, perché ad oggi, fino a ieri, l'utente era molto scoraggiato dal cambiare operatore. Una volta scelta la DSL di uno stava con quello per sempre, anche se insoddisfatto, perché sapeva che cambiare la DSL è un forte rischio, si poteva restare senza linea per settimane o addirittura mesi se c'era qualche problema, quindi comunque è un vantaggio. Di conseguenza possiamo anche immaginare che le tariffe un po' caleranno, perché gli operatori vorranno tenersi coccolare l'utente sapendo che gli è così facile cambiare adesso. E inoltre ci sono dei casi di operatori che appena sanno che l'utente se ne vuole andare gli fanno un'offerta speciale, un po' come avviene con i cellulari. Insomma, qualche vantaggio per l'utente indubbiamente c'è. Bene, Alessandro, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, saluti. @2024 è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Tra poco parleremo anche di bambini digitali, del digital divide tra le generazioni. Questo è un argomento molto interessante, anche molto importante per la crescita e la trasformazione della cultura digitale in Italia. Ne parleremo tra poco, adesso invece parliamo di commercio elettronico. L'abbiamo fatto la scorsa settimana, sicuramente più si avvicina il Natale, più anche i siti di commercio elettronico cominceranno ad offrire prodotti con particolare attenzione anche sul prezzo, e il commercio elettronico ha, come si dice, un picco nei periodi precedenti al Natale. Uno degli strumenti che spesso viene utilizzato prima di andare sui siti che vendono online è quello dei motori di ricerca verticali dedicati proprio allo shopping online. Saluto Pierpaolo Zollo, che è country manager per l'Italia e la Spagna di Kelku, un motore di ricerca verticale che fa parte del gruppo Yahoo. Benvenuto a 2024. Grazie mille, buongiorno a tutti. Diciamo subito che Kelku è un motore di ricerca. Assolutamente sì. Un motore di ricerca però particolare. Noi siamo abituati ad utilizzare i classici motori di ricerca per cercare un po' di tutto. Qua invece cerchiamo solo quello che vogliamo comprare online. Giusto, come funziona? Esattamente, allora l'utente arriva su Kelku, l'interfaccia è assolutamente simile a quella di un normale motore di ricerca, però la particolarità è che digito il prodotto di cui sono la ricerca, che voglio comprare, Kelku lista una serie di risultati che sono le offerte dei nostri clienti per quel prodotto, e da lì l'utente ha la possibilità di scegliere in base a vari parametri e l'offerta per lui ideale e migliore in base al prezzo, alla disponibilità e alla qualità dell'offerta. Senti, come funziona? Scendiamo nel particolare. Tu hai detto una persona cerca un prodotto che vuole acquistare e noi mettiamo in lista, facciamo una lista di prodotti che sono offerti dai nostri clienti. Sì. Quindi esiste un rapporto tra voi e i clienti, che sono sostanzialmente gli operatori del commercio elettronico in Italia, in Spagna, nel tuo caso poi insomma, sì, in tutto il mondo. Come funziona? Allora, il modello di funzionamento è che il listing delle offerte viene presentato all'utente in base a quanto il cliente, quindi in questo caso il rivenditore del prodotto, è disposto a pagare il click, che poi ci viene remunerato. Quindi, se io sono un negozio e vendo telefonini, vengo da voi e dico: guarda, io vorrei essere trovato come negozio dai tuoi clienti che cercano i telefonini su Kelku. Quindi poi il navigatore della rete che vuole acquistare va sul motore di ricerca, scrive telefonino tal dei tali, certo, e trova. Certo. Quindi se io sono disposto a pagare il click generato da voi di più, sono uno tra i primi nella lista. Esattamente, il modello è simile a quello degli scaffali del supermercato, per cui più sono disposto a pagare, più ho una migliore visibilità sul sito di Kelku. Quindi non c'entra la convenienza dell'offerta? Allora, diciamo che il primo display è legato a quanto il cliente è disposto a remunerare il click. L'utente ha poi la possibilità di raffinare la ricerca e di riordinarla anche per prezzo, per visualizzare qual è l'offerta con il prezzo migliore. Sì. Senti, uno degli argomenti che spesso vengono toccati quando si parla di motori di ricerca è la neutralità, cioè quanto il motore è in grado di restituirmi un risultato neutrale e quindi una fotografia di quello che succede in rete. È molto difficile, ed è per questo insomma che c'è una gara aperta e c'è un leader di mercato nei motori di ricerca normali. Voi siete il leader del mercato nei motori di ricerca per lo shopping online. Il vostro motore, ma del resto tutti i motori di shopping online, è neutrale? Allora, è neutrale nella misura in cui ci limitiamo a indicizzare tutte le offerte che vengono rese disponibili dai nostri merchant. Chiaramente, se non avendo una relazione commerciale con uno specifico partner, le offerte non vengono presentate all'utente. Benissimo, quindi se un grosso store online, immagino che sia difficile nel vostro caso, però perché avete oramai una tradizione, insomma, sì, e quindi molti clienti. Però se un grosso centro commerciale online non è un vostro cliente, io i prodotti di quel centro commerciale online non li trovo. Confermo, è così. Benissimo, è così. Comunque diciamo insomma che quanti sono i vostri clienti? Sono 400, per cui devo dire che abbiamo una coverage importante. Sì. Sono grossi o piccoli? Cioè sono i grandi negozi online o anche i piccoli negozi? Allora, si dividono direi in tre categorie, nel senso che ci sono i grandi pure player dell'online, gli E-Price, i Mr. Price, ci sono le grandi catene offline che hanno deciso di affiancare lo store online come Unieuro, Euronics, e ci sono tante realtà piccoline sparse un po' su tutto il territorio nazionale che anche loro hanno deciso di affiancare al loro piccolo negozio fisico l'attività online per incrementare le vendite. Abbiamo detto che voi avete una relazione con questi clienti che in qualche modo investono in una forma che potrebbe essere definita pubblicitaria, anche questa è pubblicità. Sì. È una pubblicità accompagnata ad un servizio, diciamo. Sì, diciamo che è una promozione commerciale. Il cliente ci paga per avere il traffico che poi converta in vendite, non ci paga per avere della visibilità fine a se stessa. Sì. Il cliente su KillQ è contento se il traffico di KillQ lo fa vendere. Quindi se io cerco quel famoso telefonino, trovo nella lista che voi proponete il telefonino che fa per me, clicco, finisco sul sito internet del sito di e-commerce, quindi il negozio online, esatto. E voi guadagnate su quel click, sul click, non solo sulla sul vendita click, non sulla vendita. Ah, non sulla vendita. Diciamo che quindi un po' come succede per i motori di ricerca, sì, tradizionali. Sì, noi facciamo di tutto perché il traffico arrivi al merchant nella maniera più qualificata possibile, nel senso che su KillQ l'utente ha già la possibilità di vedere tutte le informazioni possibili: immagine, prezzo, disponibilità, spese di spedizione. Poi tutto quello che succede dopo il click, diciamo, crediamo fermamente che sia anche responsabilità del cliente far finalizzare l'acquisto. Cioè tu dici, io ti ho portato in negozio un cliente, poi se tu riesci a vendere perché hai un bel sito, user friendly, come si dice, esattamente, facile da utilizzare, con una bella grafica, una bella interfaccia, sono affari tuoi. Esattamente, poi tantissima attenzione al customer care, perché molti clienti negli anni non ci hanno prestato tanta attenzione, e noi siamo stati anche un po' consulenti nei confronti dei nostri clienti, semplicemente aggiungendo nelle pagine il numero di telefono in alto a destra, che rassicurava l'utente perché sapeva che poteva chiamare per avere informazioni sul proprio ordine o per avere informazioni sull'ordine che si accingeva a fare, migliorava le conversioni del cliente. Incredibile. Sì. Basta un numero di telefono per sì, per un numero dire... di telefono con una faccia di una signorina carina. Aiuta molto. Aiuta molto a vendere. Sì. Senti, che cosa si vende, visto che voi avete una visibilità sul mercato dell'e-commerce italiano e spagnolo per il tuo caso, ma mondiale poi per KillQ, che cosa si vende maggiormente online? Allora, devo dire che il 70% riguarda prodotti di informatica, elettronica e telefonia. 45% è travel, 45% viaggi, 45% anche tempo libero, poi anche il 30% la fanno buona fetta l'abbigliamento, sia abbigliamento normale che abbigliamento sportivo. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 in onda tra le 15.30 e le 16.30 oppure anche online sul sito internet di Radio 24 www.radio24.it oppure radio24.ilsole24ore.com. Ci trovate online, potete scaricare il nostro programma anche grazie al servizio podcast per ascoltarci quando preferite, soprattutto con lo strumento che desiderate, aggiornando settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Paglierini, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono ogni settimana e anche a chi ci scrive al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Stiamo parlando di commercio elettronico, a proposito di e-commerce, molti videogiochi vengono acquistati via siti internet e secondo i produttori e i rivenditori americani il prossimo Natale vedrà un nuovo boom di vendite del mondo del videogioco. Nonostante la crisi, soprattutto negli Stati Uniti, il videogioco sembra non soffrire assolutamente. Le cose in generale comunque stanno andando molto bene per i produttori di videogiochi negli ultimi anni. Stiamo parlando con Pierpaolo Zollo, che è country manager, vale a dire amministratore delegato responsabile del sito di ricerche sul shopping, quindi il motore di ricerca online KillQ, sia in Italia che in Spagna, mercato che sta soffrendo particolarmente quello spagnolo, forse più che quello italiano, anzi senza il forse. Zollo, a proposito di paesi e di commercio elettronico, il mercato di riferimento è sempre, almeno a livello europeo, sempre la Gran Bretagna? È sempre la Gran Bretagna. Devo dire che sentiamo veramente tanta distanza. Io mi trovo a parlare tutti i giorni con i miei colleghi in tutta Europa e sapere che i 6 miliardi di euro generati quest'anno in e-commerce in Italia sono un undicesimo di quello che verrà generato in UK quest'anno, e ci fa sentire veramente un piccolini. Po' abbastanza piccolini. Senti, svegliamo un po' di retroscena di questo strano mondo del commercio elettronico e dei motori di ricerca che permettono agli utenti di fare delle ricerche attraverso sui negozi di commercio elettronico. Ci sono dei database incredibilmente vasti che vengono aggiornati molto spesso su prodotti, e dei prodotti vengono immesse nel database un sacco di informazioni, anche le fotografie, mi sembra, ma chiedo a te, a proposito di opportunità di business che si creano con internet, ci sono delle società specializzate nel creare i database di informazioni su tanti prodotti? Allora, diciamo che noi combiniamo sia schede tecniche fornite dagli esperti del settore, ad esempio Cinet, con tutte le informazioni che i nostri merchant ci forniscono. Quindi Cinet, lo ricordiamo agli ascoltatori, è un sito internet di informazioni tecnologiche, molto bello, americano. In più ha anche la parte che cura tutte le schede prodotto. Esattamente, e in più a questo noi affianchiamo tutte le informazioni che ci vengono rese disponibili dai nostri merchant, nel senso che il catalogo che il cliente di riferimento ci passa si compone di immagine specifica per il prodotto, descrizione del prodotto, prezzo aggiornato e spese di spedizione, disponibilità, per cui ci vengono passate tutte le informazioni relative all'offerta, e queste informazioni vengono aggiornate 2 volte al giorno per tutti i prodotti shopping e in tempo reale per tutti i prodotti travel, per cui per voli e hotel. L'utente su quella possibilità di visualizzare prezzi, disponibilità in tempo reale. Vendete, voi non vendete nulla, ma insomma ci sono anche negozi che vendono cibo? Ci sono anche negozi che vendono cibo. E sì. Vendono? Vendono, rappresenta ancora, questo è un po' il tema una percentuale ancora bassa, questo è il tema un po' dibattuto della grande distribuzione che ha paura di entrare nell'e-commerce e che non permette a questo e-commerce in Italia di decollare. Dopo aver analizzato, diciamo, i fattori culturali, che sono quelli che ci raccontiamo da tanti anni, gli italiani non si fidano a pagare online, la logistica italiana non è il massimo, il postal market in Italia non ha mai funzionato, ok, questo ormai lo sappiamo, ma c'è qualcosa di più profondo. Quello di più profondo è che la grande distribuzione in Italia, a differenza di quello che è successo all'estero, non è ancora entrata in maniera massiccia nel commercio elettronico. E si crea un circolo vizioso, nel senso che gli utenti percepiscono mancanza di offerta, nel senso che tu mi dicevi c'è cibo, ce n'è ancora poco, come ci sono ancora pochi detersivi online. Dall'altra parte i grandi gruppi, la grande distribuzione organizzata, non vede una domanda rilevante, per cui appunto si innesca questo circolo vizioso che fa stare un po' stagnante l'e-commerce in Italia. Bene, io ringrazio Pierpaolo Zollo per essere stato con noi. Grazie a voi. Sicuramente ci sarà molto da lavorare, perché se siamo ancora a questo livello e vedendo cosa stanno facendo gli altri paesi, oltre alla Gran Bretagna che va molto forte. Cioè la Francia e Germania. Diciamo che la Gran Bretagna è 11 volte noi, la Francia è 3 volte noi. Quindi quando tu parli con i tuoi colleghi tedeschi, francesi, inglesi... Insomma, mi sento un po' piccolino. Piccolino. Bene, grazie, presto, buon lavoro. Grazie a te. Naturalmente poi molte di queste cose accadono se tutto il sistema paese funziona in un certo modo e crede ad una certa evoluzione moderna anche dell'economia. Ad esempio la Germania ha creduto nel mondo delle energie rinnovabili e si è creato un business attorno a questo mondo. In altri paesi, negli Stati Uniti in modo particolare, tutto il sistema paese ha creduto nella rivoluzione digitale e si è creato un grande business attorno alla rivoluzione digitale. Quindi qua ancora le cose stentano a decollare, ma sicuramente poi qualche cosa succederà, forse anche in maniera naturale, perché le giovani generazioni cominceranno presto ad innovare anche nel settore del mondo digitale in maniera sempre più accelerata. E a proposito di nuove generazioni, si sta creando quella che gli esperti chiamano digital divide anche tra le generazioni. Spesso noi facciamo riferimento al digital divide come qualcosa di geografico, non c'è solo questa declinazione. Ne parliamo e saluto Paolo Ferri, che è un professore dell'Università di Milano Bicocca, docente di teorie tecniche dei nuovi media. Benvenuto a 2024. Grazie per avermi invitato. I bambini, sì. Tu assieme a Susanna Mantovani hai scritto un libro che ha un titolo molto esplicativo, Digital Kids, i bambini digitali, perché, come dicevo, un fenomeno che forse non viene analizzato con la necessaria attenzione è quello di questi bambini che nascono davanti ad un computer, potremmo dire. Cosa sta succedendo? Sì, quello che sta succedendo è che rispetto alla nostra generazione che aveva uno schermo fondamentalmente e neanche quello, cioè quello della televisione e ogni tanto forse quello del cinema, i bambini che nascono oggi nascono continuamente esposti a schermi. Probabilmente il primo schermo che vedono è quello del computer che la mamma e il papà usano mentre loro sono nella culla. E quindi in realtà hanno una relazione con la tecnologia in generale, anche con i cellulari o i navigatori satellitari, ma col computer soprattutto, immediata, cioè sostanzialmente lo vedono utilizzare e lo toccano quando hanno 6 mesi, 1 anno, sono nati insieme a tutti questi schermi. Evidentemente questa diversa attitudine dei nativi digitali, cioè di quelli che sono nati, come dire, dentro la rivoluzione internet, determina anche tutta una serie di nuovi comportamenti. Mentre per noi, in ogni caso, la tecnologia è, tra virgolette, una novità, ci entusiasmiamo, ci appassioniamo, per loro è per dirla in maniera semplice, come il tostapane, cioè per loro è un oggetto d'uso quotidiano. E quindi anche la loro familiarità con la tecnologia è estremamente più, la loro fluenza con la tecnologia è molto più diffusa, nel senso che la usano esattamente come usano un giocattolo. La cosa divertente è che i bambini piccoli che abbiamo, perché nella ricerca li abbiamo filmati anche in contesti familiari scolastici, fanno lo stesso lavoro anche a 2-3 anni con il computer che fanno con l'orsacchiotto piuttosto che con l'angolo del gioco simbolico all'asilo. Lo toccano, lo battono, lo leccano, ci vanno sopra col piede, insomma fanno tutte quelle pratiche di gioco simbolico che fanno con altri strumenti. È chiaro, credo, che questa familiarità precocissima, quindi questo esserci già della tecnologia nel loro mondo, determina anche il fatto che poi, man mano che crescono, per loro è il naturale videogiocare, piuttosto che stare vicino alla mamma o al papà mentre scrivono, piuttosto che provare a usare la tastiera. E questo fenomeno determina anche delle trasformazioni, probabilmente poi nei comportamenti cognitivi e anche di comunicazione quando man mano crescono. Di ciò, secondo me, gli adulti hanno poca consapevolezza, nel senso che, stando a una ricerca, per esempio, dell'Università Cattolica di Pier Cesare Rivoltella, fatto sui preadolescenti, soltanto il 13% dei genitori e degli insegnanti hanno idea di cosa fanno i loro figli quando stanno davanti al computer. Riprendiamo, stiamo parlando di bambini digitali, così come recita il nome di un libro che abbiamo qui davanti, assieme ai microfoni. Abbiamo anche questo libro Digital Kids, scritto a due mani anche da Paolo Ferri, che insegna teorie tecniche dei nuovi media all'Università Bicocca di Milano, che tra l'altro festeggia il decennale proprio in questi giorni o comunque in questo anno. Voi parlate, scrivete nel libro, di un particolare digital divide. Come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, il digital divide non è solo quello geografico, che tra l'altro non è detto coinvolga solo le zone rurali di campagna. Io ad esempio sono un caso particolare, perché abito in una zona centrale di Milano, ma in una delle pochissime e rarissime vie dove non esiste la fibra ottica. Forse hanno deciso che in quella via non riuscivano a passare le ruspe, ma quindi il digital divide esiste anche nelle città. Certo, esiste la DSL, ma insomma una DSL con qualche cavo di rame un po' vecchia. Voi scrivete, e torniamo appunto al divario digitale tra le generazioni, che esiste un digital divide intergenerazionale. Sì, sì, cioè questo si vede particolarmente a scuola, nel senso che praticamente è come se gli insegnanti oggi parlassero dei cinesi. In che senso? Nel senso che lo stile di comunicazione degli insegnanti è modellato sul libro e sulla formazione gutenbergiana. Lo stile di comunicazione dei ragazzi è modellato sulla PlayStation, sulla Wii, sull'iPod, su internet. A volte dicono: questo lo trovo anche sul libro, nei focus group, che vuol dire che normalmente lo cercano su internet. Sì. E quindi c'è proprio un problema di comunicazione tra le generazioni, E devo dire, molto spesso i discorsi che si fanno oggi sulla scuola forse sono anche viziati dal fatto che sostanzialmente, secondo me, a un certo punto i ragazzini, ma anche i bambini, si annoiano perché trovano a scuola un ambiente, o comunque nell'ambito della formazione, un ambiente che non è conforme, non è omogeneo a quello che c'è nella loro camera. Perché in camera loro c'è il computer, l'iPod, se no c'è in quello dell'amico, anche se non sono. Sì. Quindi c'è proprio questa progressiva divaricazione dei linguaggi e delle modalità di comunicare. Una cosa interessante che voi analizzate nella ricerca che avete fatto e nel lavoro che poi fate anche quotidianamente come docenti è quella relativa agli strumenti. Noi quando parliamo di un computer, parliamo di internet, di email, siamo abituati, oramai molti di noi sono abituati a utilizzare l'email, scopriamo delle cose particolari quando guardiamo come lavorano i bambini, ma anche poi proprio i più giovani. Voi avete analizzato anche gli studenti universitari, ad esempio. Sì, abbiamo fatto questa ricerca sulla dieta mediale degli studenti universitari della Bicocca, su un campione rappresentativo, e in effetti quando abbiamo guardato i dati ci siamo molto sorpresi, perché effettivamente quelli che leggono la mail, che utilizzano la mail, leggono e scrivono tutti i giorni, sono il 24%, mentre quelli che utilizzano Messenger piuttosto che altri strumenti di comunicazione istantanea sono il 54%. In qualche modo per loro la mail è troppo lenta e comunque hanno bisogno di stare sempre in contatto con la rete dei pari. E questo è un fenomeno nuovo, nel senso che la killer application, probabilmente di internet in generale, è stata la mail. Oggi evidentemente non è più così. La killer application pare essere Messenger. Dopodiché si vede anche un po' dei ritorni pubblicitari su Messenger, cioè la pubblicità su Messenger ormai costa molto perché raggiunge un target molto definito. Però è chiaro che nelle pratiche comunicative, anche dei miei dottorandi, effettivamente Messenger, Skype, piuttosto che strumenti di questa natura, sono molto più diffusi e molto più utilizzati di quanto non lo possa fare io. A proposito di questi strumenti, è interessante vedere anche la rapidità con cui si diffondono e si affermano. Voi avete fatto questa ricerca a maggio. Sì, i dati sono di maggio. Mi sono stupito perché guardando le tabelle che voi avete compilato non vedevo Facebook. No, non c'era in effetti. Cioè qualcuno lo conosceva ma nessuno lo usava. È un fenomeno statunitense, insomma. Esattamente. E in realtà anche quando abbiamo presentato i dati di ricerca abbiamo dovuto scusarci perché non c'era Facebook, perché è esploso a settembre e da settembre effettivamente ha superato MySpace, che era all'epoca il social network più utilizzato. Quindi ci sono anche fenomeni di moda e anche fenomeni di... Però certamente, per esempio, Facebook, adesso non so se durerà la moda, probabilmente no, sarà come Second Life, che a un certo punto avrà una curva di discesa. Però per esempio Facebook è interessante perché combina varie modalità di interazione simultanea. C'ha una finestra di messaggistica, puoi linkare il video su YouTube, puoi aggiungere le foto, cioè è una... In qualche modo ci abbiamo pensato su un po', non tanto perché non abbiamo fatto una ricerca su Facebook, ma l'idea è che sia una sorta di metacontenitore che accorpa gli strumenti del web 2.0. Forse a questo è dovuto il successo, oltre che alle ovvie mode che circolano oggi. Voi scrivete a proposito dei bambini digitali come i bambini usano il computer, ma soprattutto come potrebbero usarlo genitori e insegnanti. Allora, abbiamo detto che sta aumentando questa distanza e forse, come qualcuno ha detto recentemente, per la prima volta sono i bambini e i più giovani che insegnano ai genitori, quindi in un processo educativo. Ecco, a proposito del come potrebbero usarlo genitori e insegnanti, come fare per... Non dico risolvere il problema, perché questo forse è impossibile ed è difficile, però almeno, come tu dicevi prima, accorgersi di questo divario. Ma sì, cioè in realtà anche lì dai focus della ricerca viene fuori che ci sono proprio due popolazioni di immigranti digitali. Da un lato ci sono i genitori hanno dovuto, quelli che lavorano diciamo in società private piuttosto che in società dove, anche in istituzioni dove si fa uso del digitale, hanno dovuto imparare per necessità, volere o volare, cioè nel senso che si sono dovuti adattare al digitale. In qualche modo sono degli immigranti forzati, ma che stanno cominciando ad apprezzare le potenzialità dello strumento. Quindi i genitori sono più disposti a che i loro figli imparino, anzi chiedono alla scuola, chiedono anche alla scuola primaria, anche alla scuola dell'infanzia, chiedono, ma gli fate utilizzare il computer? Poi le domande a volte sono molto ingenue per certi versi. Sì. E quello che succede con gli insegnanti è un po' l'opposto, cioè gli insegnanti hanno paura, non hanno dovuto usarlo per forza, nel senso che in qualche modo l'informatizzazione della scuola italiana è molto indietro. So, pensiamo che in Inghilterra il 100% delle scuole primarie e il 98% di quelle secondarie hanno una lavagna interattiva multimediale e 5 computer. Nella scuola italiana ciò non è accaduto per varie ragioni, soprattutto di investimenti. E gli insegnanti quindi non hanno mai dovuto confrontarsi con lo strumento e ne hanno paura. Quindi quello che salta fuori è che in qualche modo l'ambiente dove questi bambini vivono risulta povero per loro e molto spesso gli stili che utilizzano gli insegnanti per comunicare con i bambini risultano non appropriati. Qui in realtà noi facciamo anche un'ipotesi di formazione, abbiamo sviluppato anche un'ipotesi di formazione. Apparentemente quello che salta fuori è che non è che si tratti di formare la gente all'uso della tecnologia in termini tecnici, ma si tratta in qualche modo di come dire, smontare, discutere con loro i pregiudizi che hanno sulla tecnologia per, come dire, superare questa barriera psicologica all'accesso. Fatto questo, poi imparano da soli. Bene, io ringrazio Paolo Ferri per essere stato con noi, anche per il lavoro che avete fatto. Grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie mille Enrico, a risentirci a tutti. Se invece non siete più un bambino, ma avete sulle spalle molte primavere, come si dice, esiste una novità, esiste un software che aiuta gli anziani, ma non solo gli anziani, insomma diciamo le persone che magari sono un po' imbranate con il computer, aiuta queste persone ad avvicinarsi al mondo dei PC, al mondo di internet. Questo è un software gratuito, tra l'altro, che si può installare sia sui sistemi con sistema operativo Windows sia con Linux. Tra poco uscirà anche una versione per Mac. Il software si chiama Eldi, è stato ideato e progettato da una società in collaborazione con una Onlus, un'associazione che cerca appunto di avvicinare queste persone ad internet. Eldi.org, Eldi scritto con la Y finale.org, è il sito internet di riferimento. Ne abbiamo parlato con Anna Bianco, che è presidente dell'associazione che ha creato e promuove questo software Eldi 2.0. Benvenuta 2024. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Quali sono le caratteristiche fondamentali e perché voi ritenete questo un software utile per avvicinare le persone, come lei le definite, deboli verso la tecnologia? Una volta scaricato il programma, sostanzialmente è facilissimo utilizzare la posta elettronica, navigare in internet e chiacchierare, e nonché scrivere, quindi utilizzare proprio le principali funzionalità del computer. È un programma dove non ci sono inglesismi, tutto è stato tradotto in italiano, ci sono caratteri molto grandi, quindi dedicato anche agli ipovedenti, e una volta che appunto si installa questo programma su un computer che non necessariamente deve essere di ultima generazione, ci sono questi 6 bottoni e dei percorsi estremamente semplici per arrivare e non perdersi nel mare magnum di internet. E questa è sicuramente un'idea interessante, anche una buona idea per avvicinare anche gli anziani al mondo di internet, della comunicazione moderna digitale, quindi non solo la televisione, non solo magari il digitale terrestre che grosso modo insomma scimmiotta la classica televisione, ma invece la vera rivoluzione è internet e tutto quello che gira attorno ad internet. In realtà gli anziani sarebbero anche un mercato molto interessante per i produttori di tecnologia, purtroppo gran parte della tecnologia viene prodotta, realizzata e progettata in paesi dove gli anziani sono una minoranza e quindi sono un mercato poco interessante. Ci fermiamo per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche per le email che ci inviate, il nostro indirizzo è 2024@radio24.it. Grazie a Luigi Borghi in redazione per l'assistenza, vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile da lunedì pomeriggio anche in formato MP3 grazie al servizio podcast di Radio 24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24, appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.